24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7.33 minuti, eccoci qua cari ascoltatori con 24 mattino in diretta fino alle 9. Subito il sondaggio che potete già votare su radio24.it. Nell'home page, bianco o nero, questa è la sezione un po' in basso a destra dove dovete entrare per votare, oppure sul sole24ore.com parliamo del caso Marrazzo. E vi chiediamo, secondo voi è giusto che si dimetta il presidente della regione che si è autosospeso per questa vicenda? Per qualcuno è una vicenda privata, per altri è una vicenda pubblica, insomma se ne discute da giorni. Vi chiediamo che ne pensate, votate lì, ne parleremo alle 8.30. E poi ora i giornali. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. È la politica che tiene banco, con problemi sia da destra che a sinistra sostanzialmente. Il PD e il PDL con la grana Rutelli da una parte e la grana Tremonti dall'altra. E le aperture dei giornali si dividono su questo. PD, si apre il caso Rutelli, così il Corriere della Sera, ipotesi scissione. La Repubblica, il PDL, no a Tremonti, vice premier. Berlusconi dice no a Tremonti, anche l'apertura della Stampa. Bersani, ora nuove alleanze, così invece apre il Messaggero. Il giornale mette insieme un po' tutto, baraonda politica, Bersani resuscita i comunisti, Rutelli diventa DC, Berlusconi boccia Tremonti, Marrazzo pagava i Viados 5.000 euro a botta e ora si dà malato per salvare il PD. Insomma, il Sole 24 Ore invece è un'apertura economica che poi vedremo, Merkel spesa non rigore per Marcegaglia, Italia all'IRAP devono cominciare a gennaio. Ma voglio iniziare i tanti commenti che troverete partendo dalla vicenda PD, appunto. Intanto c'è Rosy Bindi, a pagina 4 di Repubblica, un'intervista a Gianluca Luzzi, dice: se la vocazione maggioritaria significa un partito che ha l'ambizione di parlare a tutti gli italiani e non selezionare il target elettorale, siamo d'accordo, ma la vocazione maggioritaria vuol dire solitudine? C'è il rischio di vocazione minoritaria, perché col 26% non riusciamo a diventare un'alternativa a Berlusconi. Quindi parlerete con Casini e con Di Pietro? Chiede Gianluca Luzzi. Non possiamo non farlo, anche con la sinistra democratica. Ed è questo il tema che riecheggia, ed è un po' il tema principale del PD di Bersani, in un'intervista a Nichi Vendola. Nichi Vendola, leader della regione Puglia e uomo di Sinistra Democratica, una grande alleanza contro tutti i populismi, dice in un'intervista a Riccardo Barenghi. Dice Vendola: è sbagliato dire mai con l'UDC o mai con Rifondazione. Io propongo una grande alleanza di tutti quelli che sono contro il populismo e intendono difendere democrazia e Costituzione. Usciamo dalla fiction, usciamo dal salotto di Porta a Porta, misuriamoci sul serio con la realtà drammatica del paese. Dunque Vendola, che evoca anche lui una sorta di nuova unità o nuove alleanze del centro-sinistra, sconfessando dunque quella vocazione maggioritaria e solitaria che era la linea di Walter Veltroni. E d'altronde però c'è, come detto, la grana Rutelli al centro con Casini, lo strappo di Rutelli, si legge sul Corriere della Sera. Ci sarebbero già le manovre che ieri avevamo annunciato, ma insomma ora sarebbero sempre più concrete, manovre per la squadra dei 25, secondo il Corriere della Sera. Per esempio Paola Binetti sarebbe già pronta a seguirlo, così come un altro parlamentare, Lusi. Altri invece frenano, altri intervistati come il senatore Claudio Gustavino dice: aderisco assolutamente sì, guardo con interesse alle mosse di Rutelli. Follini invece è più dubbioso, comprendo la sua delusione, però scompaginare il principale partito dell'opposizione rischia di dare una mano alla maggioranza. Insomma, il tema Rutelli è quello principale, con Bersani che sul Corriere dice: prova a fermarlo, accetti la sfida. Non temo scissioni, dice Bersani, ma d'altronde il fatto che ci sia questo tentativo di vocazione di guardare ad alleanze a sinistra è immortalato nella prima pagina del Manifesto. C'è un Bersani, è una grande vignetta di Vauro, Bersani che ha la barbetta che ricorda certamente Lenin, Pier Lenin Bersani, PD, la nuova grande guida. Questo così vede Vauro il nuovo leader del PD. Voglio andare all'altro grande tema che trovate sui giornali, come detto è l'apertura di molti, vale a dire le tensioni nella maggioranza per i rapporti tra Tremonti e lo stesso Berlusconi. Berlusconi sulla linea dura, c'è stato ieri il vertice ad Arcore con i leader del Popolo della Libertà. Berlusconi sta all'interno anche perché è ufficiale, insomma, dai giornali le indiscrezioni di ieri pare abbia preso una forma di lieve di scarlattina e dunque annullato anche per tutti questi giorni i suoi impegni. Berlusconi sulla linea dura, basta deleghe in bianco. Leggo dal Corriere della Sera: di prendere l'interim dell'economia non ha alcuna voglia, ma deve esserci un motivo se Berlusconi ha pensato perfino a una fase di passaggio in cui sia lui a gestire in prima linea i conti dello Stato. Il Cavaliere non esclude le dimissioni reali del ministro dell'economia. E questo un po' si legge ovunque, su Repubblica, un diktat a casa mia, è inaccettabile, vi rendete conto, si legge in questo retroscena di Francesco Bei, prima mi ha posto un diktat inaccettabile, parlerebbe di Tremonti, Berlusconi, poi mi ha messo con le spalle al muro negando il taglio dell'IRAP, così non si può più andare avanti, Tremonti viene a casa mia a dettare condizioni, io prendo un Draghi, un tecnico qualsiasi e lo mando a casa. Tutti virgolettati ovviamente da prendere con le molle, ma insomma i retroscena sono fatti anche così, sono costruiti per cercare di capire che cosa bolle in pentola. Liti sull'economia, cade il gradimento, scrive anche Francesco Verderami sul Corriere della Sera, analizzando i sondaggi dai quali Berlusconi dipende moltissimo. Per una volta Berlusconi, scrive Verderami, non ha citato gli amatissimi sondaggi, ma certo spiegato il motivo per cui trattiene la propria irritazione verso Giulio, perché dice, spiega la Russa, alla gente non piacciono le liti. Fini, per esempio, se ne rese conto quando era leader di AN. Appena polemizzavamo con Forza Italia venivamo subito penalizzati nei sondaggi. Questo è il motivo secondo cui Verderami, dice Berlusconi, nasconde, trattiene la propria irritazione verso Giulio Tremonti, la recinta ai colloqui riservati, ma la rottura con Tremonti, scrive Verderami, c'è stata e poco importa se tra domenica sera e ieri pareva pronto a ribaltare il gioco, a fare lui l'out out al ministro. Se decide di restare, bene, se decide di prendere un'altra strada, auguri. Insomma, sia a destra che a sinistra il tema è quello di grandi movimenti, tanto che oggi Stefano Folli in prima pagina sul Sole 24 Ore mette proprio insieme le due vite spericolate, vite parallele per Giulio e Pierluigi, vale a dire Tremonti e Bersani. Cosa unisce i due personaggi del momento, sia Bersani e Tremonti? In apparenza poco, dice Folli, salvo la coincidenza temporale. Il primo diventa segretario del maggior partito d'opposizione nelle stesse ore in cui il secondo è protagonista di un drammatico contrasto all'interno del PDL. A ben vedere però Bersani e Tremonti sono uniti da un filo più solido. Entrambi guardano alla società e ai processi economici con l'ambizione di trarne una sintesi politica generale. Il primo per tirare il Partito Democratico fuori dalla palude in cui si è da tempo arenato. Il secondo per delineare un centrodestra del futuro che non sia più dipendente dal carisma di Berlusconi. E poi più avanti Folli dice: può darsi che Tremonti sia destinato a perdere la sua battaglia nel PDL, nonostante l'appoggio esplicito di Bossi, ma è evidente che Berlusconi commetterebbe il più grave degli errori se rinunciasse al suo ministro più significativo e più conosciuto in Europa, magari spingendolo alle dimissioni. La verità, ancora Folli, è che un'eventuale uscita di scena tremontiana non sarebbe indolore per Berlusconi, aprirebbe una ferita non facilmente risanabile con quella fascia di opinione pubblica che per il Presidente del Consiglio è davvero irrinunciabile. E che fa Tremonti in questo momento così di grande tensione? Beh, innanzitutto prima si barrica un po' nel silenzio e poi ieri è andato a parlare con le banche. Con quelle banche con le quali il ministro dell'economia si è trovato più volte in un confronto anche aspro. Dialogo Tremonti banche sulle PMI. Questo leggete sul Sole 24 Ore, ma il resoconto di questo incontro del ministro dell'economia c'è un po' su tutti i giornali. Ieri un vertice sulla patrimonializzazione aziendale, sul progetto di housing sociale. Una sorta di Pax bancaria, tanto che la stampa titola proprio così: Tremonti alla Pax bancaria. è già stato definito il patto dell'arrosto, che supera le divisioni con Intesa San Paolo, Unicredit e fondazioni. La pace bancaria, scrive Francesco Manacorda sulla Stampa, pace bancaria che, questo dice Giulio Tremonti, basta guerre tra il ministro dell'economia da una parte e banche e fondazioni dall'altra. Ieri nella sede milanese dell'Agenzia delle Entrate, prima in un colloquio ristretto, poi a pranzo davanti a un arrosto, ecco il patto dell'arrosto, Tremonti sigla la tregua, anzi la pace come la definisce, con la doppia coppia più alta che si possa pescare nel mazzo delle fondazioni e delle banche. Per gli azionisti del mondo creditizio, il presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, grande socio di Intesa San Paolo, e il vicepresidente di Unicredit Fabrizio Palenzona. Per le banche Alessandro Profumo e Corrado Passera, vale a dire due manager che guidano Unicredit e Intesa San Paolo. E voglio qui arrivare e cominciare ad accennare alle innumerevoli pagine e commenti che trovate sul caso Marrazzo, che continua. La novità del giorno è che per l'incontro avrebbe pattuito 5.000 euro. Per l'incontro 5.000 euro e una banconota arrotolata. Così si legge sul Corriere della Sera, pagina 11. Ha dato un telefono della regione ai ricattatori. Nel video girato in casa di Natalie o Natalia appare anche una banconota arrotolata a mo' di cannula per l'aspirazione di stupefacente per via nasale, prezzo pattuito di 5.000 euro, ma i militari arrivarono, i quattro carabinieri, un istante prima che i due comincino a consumare il rapporto sessuale concordato. È pieno di retroscena, per esempio, di due politici nuovi che sono evocati senza essere citati, ma che sarebbero anche loro in questo giro di presunti ricatti. Beh, Repubblica lo scrive, altri giornali lo scrivono, Libero è più esplicito, intervista, no scusate, non Libero, il giornale forse, no è proprio Libero, Libero intervista un ex pusher che poi peraltro è morto in circostanze, secondo Libero, anche un po' da accertare, Gianguarino Cafasso, lo spacciatore del caso Marrazzo, ucciso in overdose in circostanze da chiarire, avrebbe contattato Libero un po' di tempo fa facendo vedere il video e dicendo anche: io li posso rovinare, c'ho dei clienti tra i politici che, se ve lo dico, c'è uno grosso che chiamano addirittura chiappe d'oro per come gli piace. In primo piano. Andava a trans già nel 2005. Ecco la prova. Così parla sul giornale. Il giornale lo intervista. Si tratta di l'investigatore Pierpaolo Pasqua, che dice: io già nel 2005, peraltro è sotto processo, ma insomma, io ho solo svolto alcune indagini allora per scongiurare un'ipotesi di spionaggio nei confronti di Storace. E che succede? Che in modo incidentale, a forza di lavorare, di chiedere, di curiosare qua e là tra i frequentatori dei comitati elettorali, è spuntata fuori questa storia del transessuale che si vedeva spesso con Marrazzo. La notizia è venuta da noi, non siamo noi andati a cercarla. Era Natalie, chiede l'intervistatore. No, è Gianmarco Chiocci. Si faceva chiamare Veronica. Esercitava la professione in due diversi appartamenti, uno sulla Cassia, credo proprio in Via Gradoli, un altro nel quartiere della Trionfale. Insomma, testuale leggo nella mia memoria depositata nel 2005: in un'occasione abbiamo filmato Marrazzo entrare e fermarsi brevemente al comitato elettorale, non ho seguito tantomeno nessuno, tantomeno Marrazzo, non abbiamo rilevato tabulati telefonici. Insomma, Pasqua si difende dicendo: io non ho seguito nessuno, ma allora già scoprimmo quella che era la frequentazione di Marrazzo. È lo stesso, diciamo, tenore sul Fatto, Marrazzo, quegli abissi, il patto del silenzio tradito. Il Fatto, in un articolo di Enrico Fierro, dice: ma da anni rapporti con i trans, la solitudine, le avvisaglie del dossier, perché non ne ha parlato con nessuno? E c'è tutta la vicenda delle polemiche sulle dimissioni che non sono arrivate, ma c'è stata un'autosospensione, una sospensione per un certificato medico che accerta uno stress psicofisico temporaneo di 30 giorni. Il Popolo della Libertà, insomma, dice: è una vergogna, denunciamo i medici, bisogna andare subito alle elezioni, il governatore si deve dimettere subito. Questa è anche la domanda del nostro sondaggio, votate su radio24.it: si dovrebbe dimettere, è giusto che si dimetta, secondo voi Marrazzo, sì o no? Ne parliamo poi alle 8.30. E vi voglio anche segnalare, per chiudere con questa vicenda, che troverete un editoriale di Davide Rondoni a pagina 2 di Avvenire, riflessioni sul caso Marrazzo e su noi uomini. Che questa sia l'occasione per una riflessione seria, dura, al tempo stesso pietosa, scrive Rondoni. Sì, usiamolo questo aggettivo, senza il quale ogni società umana decade, poiché senza pietà ogni umano consorzio si disfa e si insanguina. Perché si tratta di considerare una cosa: nel cuore di un uomo può agire la spinta ideale, buona e costruttiva, a darsi da fare, a impegnarsi bene, e anche contemporaneamente agire la spinta a buttarsi via, a obnubilarsi in un oscuro dispendio di se stesso, del proprio corpo, della propria energia. Costruzione e dispendio, fare del bene e buttarsi via. Questo può succedere e non di rado. Questo, diciamo, è il cuore dell'intervento di Rondoni, dal titolo Torniamo per pietà alla vera questione morale. Voglio tornare per un attimo al Sole 24 Ore di oggi, Sole 24 Ore di oggi, che tra l'altro vi voglio segnalare tra i rapporti che ci sono in allegato. C'è un rapporto molto interessante, il rapporto Junior. Sostanzialmente è un rapporto, un inserto che traccia un ritratto delle famiglie italiane con figli sotto i 12 anni, e scoprire anche che la ripresa può partire da qui, in piena crisi, perché questa tipologia di famiglie incrementa i consumi di prodotti dell'infanzia, per esempio del 7,6%, secondo l'analisi che trovate in questo rapporto allegato oggi al Sole 24 Ore. Ma sul Sole 24 Ore trovate anche un'altra intervista interessante, con la quale voglio concludere, vale a dire l'intervista che Lino Terlizzi ha fatto al presidente della Confederazione Elvetica, che è anche ministro delle Finanze, Hans Rudolf Merz. Parla dello scudo fiscale, dice: Berna pronta a cooperare. La Svizzera non è un paradiso fiscale, dice Merz, manteniamo un sistema attrattivo con un carico fiscale competitivo sul piano internazionale. Nel nostro paese le persone fisiche e giuridiche sono tassate conformemente alla loro capacità contributiva. Se la Svizzera è una delle principali piazze finanziarie mondiali, è dovuto innanzitutto alle competenze e al know-how di coloro che operano. E ancora sul segreto bancario, dice Merz, la protezione della sfera privata dei clienti svizzeri ed esteri delle banche è ancora assicurata. In Svizzera il segreto bancario è mantenuto. E infine la Svizzera non deve figurare su nessuna blacklist in Italia. Le tre blacklist di cui dispone l'Italia saranno sostituite dalle whitelist, le quali avranno come criterio un effettivo scambio di informazioni ai fini fiscali. Questo è il presidente della Confederazione Elvetica, intervistato da Lino Terlizzi sul Sole 24 Ore, così come troverete, per concludere davvero con la rassegna stampa, ovunque la foto di Gentilini. L'ex sindaco di Treviso è stato condannato a non fare comizi per 3 anni perché disse, tra le altro: bisogna far pulizia delle etnie che distruggono il nostro paese. Non voglio vedere neri, marroni o grigi che insegnano ai nostri bambini. Cosa insegnano? La civiltà del deserto? No alle moschee, ai centri islamici. La condanna: 3 anni senza comizi. Votate il sondaggio su radio24.it. Marrazzo, è giusto che si dimetta, sì o no? Ne parleremo alle 8.30, ora GR24. Sono le 8.17 minuti, eccoci qua con 24 Mattino ed eccoci a parlare di economia. X-Match, gli ETF di Credit Suisse, vi presenta Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Sapevo a memoria lo spot. Sì, cantava lo spot. Peccato no, che i microfoni non sono lo cantavo alle 8 del mattino, non mi sembra il caso con queste voci che abbiamo. Vabbè. Allora, oggi come mai parli di terza età? No, non lo so, no, forse perché stare, mi avvicino dai. Sempre di più prepotentemente no, sul viale del tramonto. È una battuta quindi scontata. Esatto, in realtà, te l'ho già detto mille volte, noi non siamo più tanto giovani, ma dovremo ancora lavorare almeno 40 anni, ancora staremo qua fra 40 anni a raccontarcela la mattina. Parla sempre per te, comunque. Buongiorno a tutti. Allora. L'Italia è un paese in cui l'età media è più alta rispetto agli altri paesi ed è un'età media che continua ad allungarsi, con tutte le conseguenze positive e negative che questa situazione comporta. La qualità della vita è sensibilmente migliorata grazie ai progressi della medicina, dell'economia, ma sono molti di più i lavoratori che entrano stabilmente in pensione rispetto ai giovani che entrano stabilmente nel mondo del lavoro. È chiaro che stiamo estremamente banalizzando un discorso che è molto importante e molto complesso, ma è noto a tutti come negli ultimi anni questo fenomeno abbia comportato la necessità di intervenire più volte con interventi interventi più o meno incisivi nel settore previdenziale pubblico. E tra l'altro oggi il tema dell'allungamento dell'età pensionabile è una delle priorità sollevate dall'Europa, un po' meno priorità al momento risulta nell'agenda di governo, ma prima o poi se ne dovrà prendere coscienza. E allora tutto questo, il tema dell'invecchiamento attivo, welfare, lavoro, terza età, saranno le tematiche che verranno trattate venerdì e sabato in un grande e importante forum che si svolgerà a Stresa dal titolo Terza economia, sempre più valore della terza età. E allora stamattina ne anticipiamo un po' i contenuti con il professor Marco Trabucchi, Università Tor Vergata, geriatra e anche presidente del comitato scientifico della Fondazione Socialità e Ricerche Onlus, che è tra i soggetti che hanno elaborato questo progetto, no? Proprio per valorizzare l'invecchiamento attivo nella società. Professor Trabucchi, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi questa mattina. Peraltro io così glielo ricordavo anche prima al telefono, quando ci siamo sentiti prima della trasmissione, io me lo ricordo molto bene, il professor Trabucchi è stato interpellato più volte proprio in concomitanza del malore del Presidente del Consiglio Berlusconi. Professor Trabucchi, peraltro una persona che potrebbe stare tranquillamente a riposo e che invece può rappresentare un classico esempio di una persona molto dinamica e molto attiva ancora nella società. Sì, chi Berlusconi le dice, certo. Ma non credo che sarebbe felice di sentire che parliamo della sua terza età, che viene della prima età e quindi... Allora... Ma è l'esempio tipico di persona che per responsabilità, compiti, doveri si mantiene giovane. Certo, lui avrà poi forse qualche pillola della felicità o della gioventù che prende, che noi non conosciamo, però la pillola vera di Berlusconi è la responsabilità e il lavoro che fa, e questo lo mantiene giovane, non c'è dubbio. Io ho trovato una sua dichiarazione, professor Trabucchi, qualche tempo fa, che ha detto qualche tempo fa: lo stereotipo dell'anziano solo è triste, non è più plausibile, la condizione ideale è cercare di trascorrere una vita normale. Ecco, sì, certo. Il concetto di normalità prevede che per molta gente che ce la fa, che non fa lavori usuranti, che ha interessi eccetera, di poter continuare a lavorare oltre i 65 anni, nel senso che il non c'è una porta, un arco oltre il quale si entra nella vecchiaia. La vita è normale ed è una continuità, e quindi anche il lavoro deve essere vissuto in questo senso, che dopo ci debbono essere problematiche specifiche per organizzare il lavoro delle persone quando secondo la legge dovrebbero andare in pensione è un'altra cosa, però dal nostro punto di vista, dal punto di vista umano, dico prima ancora che clinico, non c'è dubbio che una vita normale, cioè senza salti, senza obblighi particolari, perché uno ha 58, 59, 60 o 65 anni, è il modo migliore per continuare a vivere. Tutto questo, professor Trabucchi, al centro del progetto Terza Economia che presentate a Stresa questo fine settimana? Sì, perché questa è la premessa, quella che abbiamo parlato, cioè la logica di non andare in pensione con la testa e quindi nemmeno con le gambe. È chiaro che poi nel progetto che verrà presentato a Stresa a fine settimana parleremo più concretamente delle possibilità di ritardare il processo di invecchiamento, il processo di pensionamento, ed anche della possibilità di creare lavori alternativi, che siano però lavori veri. Io credo poco per la maggior parte delle persone negli hobby. Certo, c'è chi si accontenta, ed è una cosa anche nobile, andare a fare l'orto, il volontariato, certo, oppure occuparsi di più della famiglia, che magari tutte cose bellissime, importanti, significative, però per molte persone non sono un sostituto di un'attività lavorativa vera, cioè quella che costringe all'impegno intellettuale, all'impegno anche fisico, all'interesse. Quello che la continuità della vita, l'abbiamo detto prima, guardare i nipoti è una cosa bellissima, ma è una cosa che uno non fa a 55 o a 50 anni, perché e non tutti sono pronti a farle a 65 o a 70. Insomma, concretizzando proprio in termini economici il discorso, la persona anziana può diventare o continuare ad essere un produttore di ricchezza per sé e per la collettività, però nell'ambito di questo studio, mi scusi professor Trabucchi, però lascio concludere, ovviamente gli aspetti che vengono sollevati sono tanti, intanto il ruolo, la reazione delle aziende, no, che sono direttamente interessate a tutto questo, perché naturalmente i meccanismi aziendali devono adeguarsi anche al riconoscimento del ruolo del lavoratore anziano, rispettandone competenze, sensibilità e capacità. Una persona con esperienza può dare di più in un'azienda rispetto ad un neo introdotto, ma costa anche di più. Secondo lei cosa dicono le aziende? Noi ne parleremo a Stresa in maniera molto approfondita con le aziende, perché se l'azienda si trova a dover pagare di più, poi è chiaro che di fatto rinuncerebbe al contributo degli anziani. Quindi tra le proposte che facciamo vi è anche quella, appunto, di un controllo in maniera adeguata del costo del lavoro delle persone anziane o delle persone vecchie, tenendo conto che però sono in grado spesso di dare anche un plus valore. Quindi se anche costano un po' di più, però danno un plus valore in termini di produzione, di capacità di adeguamento ai nuovi processi, di capacità di capire il percorso di un'azienda, è chiaro che allora si può anche affrontare un piccolo costo in più. Professore, lei è un geriatra e stamattina la faccio fare anche un po' l'economista, ma secondo lei qual è la sensibilità generale intorno a questo problema che viene sollevato ogni qualvolta rappresenta in termini pubblici un'emergenza economica? Sì, no, non c'è, se dobbiamo essere sinceri, grandissima sensibilità per questi problemi. Invece è una cosa delle persone vecchie, a noi non interessa. Però credo che attività come quella della terza economia che faremo a Stresa serviranno proprio per far capire, in particolare alle aziende, oltre che al mondo politico, che questa realtà dell'anziano è una realtà che va modificata non solo per far star meglio la persona anziana, ma perché potrebbe sostanzialmente, anche sul piano economico, migliorare la situazione collettiva. Professore, un'ultima domanda. Le persone che vengono da lei, che naturalmente lei segue dal punto di vista medico e che si interessano, no, proprio al mantenimento della propria vita lavorativa anche dopo la pensione, che cosa suggerisce di fare? Io così, avendola conosciuta questa mattina, immagino già che immediatamente proprio la via del volontariato, della parrocchia, non la suggerisce? Carità, è una cosa bellissima, importante e significativa, non sono certo contrario, anzi, per chi, ma capisce, non è che invecchiando diventiamo tutti uguali, invecchiando continuiamo forse ad essere ancora più diversi di quanto siamo stati quando eravamo giovani o adulti, e quindi dobbiamo offrire a ogni persona quello che preferisce. Questa è la vera libertà per invecchiare bene. Se uno non è mai andato, non ha la testa per fare volontario, non lo farà. Se uno non ha la testa per fare gli hobby, raccogliere i francobolli, non lo farà da vecchio, diventa una forzatura, diventa una cosa inutile. Ecco, offrire a tutti uno spettro adeguato alla propria sensibilità, e sapendo bene che per moltissime persone il continuare a lavorare è un momento importante per difendere, insisto, la propria libertà e la propria dignità. Benissimo, grazie professore Trabucchi per essere stato con noi. Ricordo ancora questo fine settimana a Stresa la presentazione del rapporto Terza Economia, sempre più valore dalla terza età. Grazie ancora, grazie. Alessandro. Eccoci qua. Ci hanno scritto che sembriamo due suocere. Vabbè, sempre meglio di Sandra e Raimondo. No. Ci hanno dato anche di Sandra, Romeo e Giulietta, per non parlare di quella più romantica, insomma. Vabbè, Salva Danaio. Mercati fra super euro e petrolio oltre gli $80 al barile. Che succede sui mercati? Grazie suocera, ci sentiamo domani. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: nella maggioranza non si sciolgono i nodi del confronto tra PDL e Giulio Tremonti. Il ministro dell'economia conferma la necessità di blindare le linee della politica economica e non rinuncerebbe alla nomina a vice premier ricevendo l'appoggio della Lega. Idea però bocciata dallo stato maggiore del PDL. Intanto Confindustria insiste: serve un piano per tagliare gradualmente l'IRAP a partire da gennaio 2010, dice il presidente Emma Marcegaglia. Problemi da affrontare anche nel PD del neosegretario Bersani, due i nodi, quello delle alleanze e la possibile uscita dal partito di Francesco Rutelli, che oggi chiarirà le sue intenzioni su una possibile confluenza nell'UDC. Un barcone con quasi 300 migranti, dopo giorni in balia del mare in tempesta, è arrivato ieri a Pozzallo, in Sicilia. A bordo anche un morto, un somalo di 25 anni. Non si esclude che la causa sia legata a una malattia virale. Infine arriva oggi nei negozi This Is It, il doppio album postumo di Michael Jackson, dedicato ai suoi tre figli, e contiene tre inediti. E allora, alle 8:34 minuti, ricordando che ieri abbiamo parlato di finanziamenti pubblici all'editoria, il nostro sondaggio dice che l'87% di voi li vorrebbe senz'altro abolire, quasi un plebiscito. Il nostro sondaggio di oggi, parliamo del caso Marrazzo. Nissan City Cars GPL. Welcome to Simplicity. Vi presenta Bianco o Nero, il sondaggio di Radio 24. Di Alessandro Milan. Allora, il caso Marrazzo, vi chiediamo su Radio24.it o il Sole24ore.com: è giusto che si dimetta il governatore che si è autosospeso, certificato di 30 giorni di stress psicofisico, indisponibilità temporanea? L'opposizione, in questo caso il PDL, il centrodestra, dice una vergogna, si deve dimettere. Che ne pensate voi? Si deve dimettere? Ma in senso generale qualcuno dice, ma insomma, la vita privata è entrata ancora una volta prepotentemente nelle vicende di un uomo pubblico. Altri dicono, altro che vita privata, qui c'era un'estorsione in atto, ci sono delle ipotesi di reato da parte delle persone arrestate. Voglio salutare Francesco Storace, buongiorno, segretario della destra. Buongiorno. Questa indisponibilità temporanea le dà fastidio, questo stress psicofisico? Non possiamo ipotizzare che Marrazzo sia un uomo distrutto, come ha detto in un'intervista in questo momento? Non ne ho alcun dubbio, e se permette voglio anche manifestare preoccupazione, perché è indubbio che questa vicenda abbia ferito in maniera grave il governatore del Lazio. Ma questo è un motivo proprio per non cedere a pressioni politiche. In queste ore un uomo stressato viene costretto a questa pantomima. Io trovo indecente questo comunicato, che tra l'altro non appare nemmeno nel sito della regione, nemmeno questa mattina. Insomma, c'è un mistero attorno a questa roba che non fa bene. Dovrebbe dimettersi, secondo lei, senza... Ma credo sarebbe anche il suo interesse. Del resto, perché si è dimesso da commissario per la sanità e non da presidente della regione? Tutto questo sa molto di politica, di cattiva politica. Marrazzo deve trovare la forza per uscire da questa crisi personale. Deve fare sgombro dalla polemica politica. Senta, le chiedo, oggi il giornale intervista Pierpaolo Pasqua, l'investigatore dipinto del Lazio Gate, che dice: ma che io non ho mai spiato Marrazzo, tantomeno l'ho spiato, non ho fatto nulla per Storace nel 2005, però certo, indagando così per scongiurare un'ipotesi di spionaggio nei confronti di Storace, abbiamo scoperto in modo incidentale che queste voci, queste frequentazioni di Marrazzo c'erano già allora. Queste voci lei le aveva sentite? Ma guardi, io le ho lette sui giornali all'epoca in cui esplose l'inchiesta. Se ne parlò, mi sembra, sul Corriere della Sera, adesso però non ricordo perché parliamo di qualche anno fa. Il fatto che se ne parlasse non significa che ne parlasse né il signor Pasqua né io, insomma. Evidentemente erano voci, ma del resto emerge oggi che le sue frequentazioni risultano datate di molti anni fa, quindi non mi sembra una grande sorpresa. Così pare, insomma, già nel 2005. Cioè, non c'era bisogno di un golpe, ecco, questo voglio dire. Io voglio salutare, ci ascolta anche Vladimir Luxuria, buongiorno. Buongiorno. Così come voglio salutare anche Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, buongiorno, benvenuto Bonini. Buongiorno. Voglio partire, Vladimir Luxuria, lei oggi ha fatto un intervento molto accurato, io mi sono letto con molta attenzione, pubblicato dagli altri, nel giornale di Piero Sansonetti, in cui lei dice, chiariamo una cosa, un transessuale, una persona transessuale non è una bestia ma un essere umano. Ecco, una cosa che a me pare ovvia, che tutti dovremmo sottoscrivere, perché lei ha trovato la necessità di sottolinearlo? Che sembra quasi che il fatto di aver tradito la propria moglie non con una donna ma con una persona transessuale costituisca quasi un aggravante abominevole, perché sinceramente ho letto alcuni commenti su tanti giornali che mi hanno molto, diciamo così, colpita. Ho letto addirittura chi ha scritto su giornali che era meglio ai tempi delle Brigate Rosse, quando in quell'appartamento c'erano dei terroristi assassini, rispetto adesso dove ci sono delle transessuali che si prostituiscono. Ho letto commenti in cui vengono definite le persone transessuali come degli uomini mascherati. Insomma, mi sembra che questa sia stata l'occasione per far scatenare un odio nei confronti delle transessuali, che adesso sembrano essere davvero le persone più colpevoli, soprattutto in un periodo in cui c'è tanta omofobia e transfobia. Ho paura che questo clima possa determinare ancora più criminalizzazione e diffidenza soprattutto nei confronti di tutte quelle transessuali adolescenti che con fatica, in un contesto familiare che per fortuna le ha accettato, stanno cercando di ritagliarsi il loro tempo nello studio e nel lavoro. Lei ha anche scritto che la colpa, secondo lei, visto che l'ascolta Carlo Bonini, insomma, di Repubblica, è anche di tutti quei giornalisti e politici che si sono illusi di distruggere Berlusconi sul piano personale tra storie di escort e trans a Palazzo Grazioli. Oddio, vabbè, i trans a Palazzo Grazioli io non ne ho sentiti, ma comunque questo per dovere di cronaca. Ma le chiedo, c'è un paragone secondo lei tra le due vicende? Lo trova, lo scorge oppure no? In realtà tra le intercettazioni e tutta questa vicenda qui c'era, che era spuntata anche fuori a un certo punto, la presenza di una persona trans, che non vuol dire che non vuol dire ovviamente che né che il presidente abbia avuto un rapporto, perché adesso non vorrei che un uomo pubblico o politico debba avere paura di poter chiacchierare con una persona come me o di andarci a cena o di andare a vedere al cinema, perché questo vuol dire essere venuto a letto con me. Insomma, questo voglio augurarmelo. E sì, io ho semplicemente detto che non mi è mai piaciuto e ho trovato anche abbastanza degradante, questo sì, il fatto che si sia dato così tanto risalto andando a spulciare la vita privata delle persone. Non mi è piaciuta né ai tempi di Bill Clinton e non mi piace una politica in cui si cerca in tutti i modi di distruggere l'avversario politico andando a scavare sul piano della privacy, soprattutto per quello che riguarda le abitudini sessuali. Lei non troverà nessuna mia dichiarazione, neanche ironica, su tutta la questione di Berlusconi e della vita privata, perché penso che i cittadini italiani sono abbastanza intelligenti da giudicare un uomo politico per quello che fa nella politica e non nella sua camera da letto. E soprattutto mi voglio augurare che questo non significa aver adesso augurato una stagione di vendette incrociate in cui non si saprà adesso chi sarà il prossimo direttore di giornale o il prossimo ministro che verrà o appunto indagato nella sua vita privata o peggio ancora, come potrebbe succedere, vittima di trappole. Sì, ci potrebbero essere delle regine per decidere chi deve essere colpito. Guardi, già i giornali oggi parlano di altri due politici, questo un po' su tutti i giornali, ritrovate due politici che sarebbero almeno coinvolti nello stesso giro, insomma, di Marrazzo. Prima di andare da Carlo Bonini, perché oggi Carlo Bonini scrive una cosa molto interessante su Repubblica, vorrei, Storace, mi fa una replica su questo, cioè vicenda privata. Vladimir Luxuria dice: io non ho fatto nessuna dichiarazione neanche nel caso Berlusconi, che rimanga nella sfera privata, invece si è esondato, insomma, sui giornali con cose poco private. Io non ho dubbi che Vladimir Luxuria abbia ragione su questa questione. Io trovo abbastanza deprimente frugare tra le lenzuola. Dico che però la vicenda Marrazzo non è solo una questione di lenzuola, è una questione molto più alta dal punto di vista etica, o basta, dipende dal punto di vista, perché stiamo parlando di altro, stiamo parlando di un cedimento a una banda di ricattatori. Ci sono cittadini in Sicilia che fanno gli imprenditori e che vengono cacciati da Confindustria siciliana se non pagano il pizzo ai mafiosi. Un presidente di regione credo che abbia tutta la forza, se lo vuole, di poter denunciare un ricatto, un'estorsione e mandare in galera lui quelli che gli stanno facendo. Cosa questa ricatto. Che non ha fatto. E tra l'altro, credo su questo voglio anche dire un'altra cosa. A me imbarazza la pruderie di certa sinistra, perché Luxuria è l'esempio vivente, se vogliamo. Credo che la sinistra da mesi strilla contro l'omofobia, indubbio che sono accaduti episodi di violenza a danno di omosessuali. Sembra quasi che ci si vergogni però, per paradosso, di un presidente di regione pizzicato col trattessuale, e questo la trovo un po' un'incoerenza. Scriveva ieri Giuliano Ferrara sul Foglio. Carlo Bonini, eccoci qua, abbiamo ascoltato, insomma, Storace e Vladimir Luxuria. La sta cercando Palazzo Chigi, i 15 minuti fatali del governatore. Tu oggi scrivi un interessante articolo in cui Berlusconi sicuramente c'entra, almeno dal punto di vista della cronaca, cioè che è successo? Ma è accaduto che la mattina del 21 ottobre, diciamo il giorno cruciale di questa vicenda, perché nel pomeriggio di quel giorno Marrazzo viene interrogato in procura e la trama del ricatto si svela in qualche modo. Marrazzo, che è presente a un convegno a Residenza di Tetto organizzato dal PD, viene raggiunto da una telefonata del Presidente del Consiglio, testimone privilegiato di quella mattina, che è accanto al presidente, racconta di Marrazzo che scompare dalla sala per un lungo periodo, un quarto d'ora, e per farvi rientro sconvolto, visibilmente provato, tanto che chi gli è intorno pensa che abbia avuto un malore fisico. Questa circostanza, questo dettaglio, in qualche modo rimette un po' in discussione, per quello che riguarda, chiamiamolo, il capitolo della trattativa, dei colloqui tra Berlusconi e Marrazzo, quello che, diciamo, fino a ieri sera è stato dato per scontato, cioè che i contatti telefonici tra il governatore e il presidente del Consiglio siano stati soltanto uno. Che gli ha detto, però, non, insomma, cosa gli ha detto evidentemente lo sanno soltanto i due interlocutori. La cosa però, diciamo, che credo debba far pensare è che la mattina di mercoledì 21 ottobre è un giorno, ripeto, è il giorno cruciale, quindi è evidente che non può essere stata una conversazione in cui Berlusconi rassicurava Marrazzo sul fatto che il video non sarebbe stato pubblicato, anche perché la mattina del 21 ottobre il video, che era in custodia presso un'agenzia fotografica milanese, era già stato acquisito dai carabinieri, quindi sarebbe stata una rassicurazione del tutto superflua. Insomma, l'idea, anzi, che la situazione forse stava per precipitare in qualche modo. Di lì a qualche ora, infatti, c'è stata la convocazione della procura. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, devo dire che per il momento il 71% dice sì, deve dimettersi Marrazzo dalla presidenza della regione a seguito a questa vicenda. Voglio andare a due ascoltatori, 800 24 00 24, siate brevi per cortesia. Sergio da Terracina, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, accolgo l'appello, sarò brevissimo. Io sono per la divisione completa fra la vita privata e la vita pubblica. Voglio giudicare i miei amministratori per quello che fanno nel campo amministrativo. Devo notare che ultimamente pare che invece sia esattamente l'opposto, perché persone che sono... Cioè, secondo lei questa è una vicenda privata? Privata? Voglio dire, ci sono quattro arresti, ci sono forse degli assegni pagati, ci sono forse una persona che era diventata forse ricattabile nella sua posizione, no? Allora, fin quando non c'è un reato penale, allora per me la vita privata è separata da quella pubblica. È chiaro che se c'è una, ed ecco dove poi dopo insisto, c'è un'ipotesi di reato nei confronti dei quattro carabinieri, insomma. E quindi se poi verrà accertato del penale, allora non diventa più un fatto privato, ma diventa un fatto pubblico. Bisogna attendere l'iter. Grazie, Sergio. Luca da Torino, buongiorno. Luca, sì, buongiorno. Dica. Ma io ne faccio una questione un po' più di principio, cioè il punto è che questa è gente che ci rappresenta, questa è gente che a un certo punto ha definito delle linee politiche e di principio. Siccome ultimamente l'incoerenza sembra all'ordine del giorno, si smentisce quello che si è detto il giorno prima, allora come può poi una persona avere fiducia nel momento in cui, come diceva anche prima, adesso non ricordo l'ospite che avete... In Calabria c'è gente che paga il pizzo, no? E se lo fa viene esclusa da Confindustria. Sì, non vedo perché un governatore, cioè ci sono delle similitudini. Detto questo, però, il punto principale non è il che cosa ha fatto, se è andato col transessuale piuttosto che. Ma il fatto stesso di aver fatto una cosa che lui stesso ha detto che non va fatta. È come se io dicessi a mia figlia che non si beve dalla bottiglia quando papà lo sta facendo. Va bene, grazie Luca. Vorrei tornare a Vladimir Luxuria. Ho letto tantissimi articoli in questi giorni sul rapporto tra potere e sessualità. Potere e anche, insomma, non è il primo caso, abbiamo visto anche in passato, insomma, di potenti trovati in festini. Lei che ne pensa? C'è questo, si dovrebbe indagare di più su questo rapporto, oppure rientra nella sfera, come dire, non è che è legata tanto al potere, ma è legata alla vita comune di tutti noi, insomma. Credo che dovremmo un po' smettere di stare lì a pensare che le persone vanno giudicate in base alla propria privacy, però poi sui dati più sensibili, cioè i dati sulla sessualità, ma che la gente dovrebbe continuare a giudicare l'operato di una persona nel palazzo del governo, nel palazzo della regione e non sicuramente in una camera da letto. Qui siamo andati ben oltre, una volta ci accontentavamo di spiare dal buco della serratura. Io un reality l'ho fatto, però almeno l'ho fatto in maniera ufficiale una volta cessato il mio mandato di parlamentare, ma adesso mi sembra che sia tutto diventato un reality. E allora quindi l'idea che invece dal spiare dal buco della serratura a sfondare addirittura le porte di abitazioni private, perché io voglio ricordare che uno dei capi di imputazione più gravi su questi quattro carabinieri che disonorano tutti gli altri carabinieri che invece a volte rischiano la vita guadagnando pochissimo per onorare la propria divisa, una delle imputazioni è violazione di domicilio. Cioè qui dobbiamo tutti stare a pensare che mentre ce ne stiamo nelle nostre camere da letto può entrare qualcuno già armato di videocamera, come gli inviati di Striscia la Notizia, probabilmente persone che non so adesso se sono state così capaci di mettere il tesserino di Marrazzo accanto alle strisce di cocaina. Bisogna anche adesso appurare se c'erano queste strisce, se l'hanno messe apposta. Insomma, io aspetterei che la magistratura faccia tutte le indagini sul peculato d'uso, sulla questione anche della corruzione pubblici ufficiali. Io voglio solo dire che è vero che è grave che il governatore del Lazio abbia ceduto al ricatto. Poi questa storia degli assegni mi puzza molto, perché non lo so, uno lascia la traccia, vabbè, comunque si appurerà anche questo, però dico solo di avere un po' più di comprensione, nel senso che non so quale uomo italiano si sarebbe comportato in questo sistema sociale in maniera diversa. E dire che io sto sempre di più, ho più solidarietà verso chi è ricattato e non chi ricatta. Storace, vorrei chiedere in chiusura, fa differenza se per lei se Marrazzo fosse stato pescato con una donna o con una prostituta, con una escort? Mi pare che faccia differenza per la sinistra, non per me, perché ripeto, l'ho detto prima, ma mi sembra che sia una frase rimasta nell'aria. C'è stata una lunga polemica sul tema dell'omofobia. Io dico semplicemente che se Marrazzo fosse stato pizzicato con una donna e fosse stato ricattato, avrebbe avuto comunque il dovere di denunciare il ricattatore. Non credo che ci sia altro da dire. Ci sono questioni che vanno ben al di là della camera da letto. Io vorrei che si uscisse da quest'angolo della polemica e si andasse nel palazzo direttamente. Può un'autorità che ha i poteri che conosciamo, perché vede, c'è un punto, un cono d'ombra in questa vicenda di cui nessuno ha parlato. Io conosco, credo di poter essere creduto sul punto, il valore delle firme che mette il presidente di una regione. Si è parlato di questo video che doveva essere venduto a gruppi editoriali. Chi può escludere oggi con certezza che non sia stato tentato un approccio anche con qualche imprenditore della sanità o dell'edilizia per poter ricattare il presidente della regione? Su queste questioni ci si fa male. La firma di un presidente della regione può cambiare una vita. Il presidente della regione, quando mette una firma, ha un potere enorme. E se quel video è andato nelle mani di qualche delinquente che lo volesse usare per, lo avesse voluto usare per i propri interessi, noi lo sappiamo da luglio, perché a luglio ci fa ricadere questa vicenda, ma sì, lo sappiamo che ne so, per avere un appalto, possiamo dire, per avere un appalto. Avere un appalto, per avere un accreditamento di una struttura sanitaria, insomma ci sono interessi in ballo enormi in una regione. Ecco, noi dobbiamo essere assicurati che questo non è successo, perché qui ci sono tante zone d'ombra. Anche la stessa storia, se sono stati i carabinieri a chiedere i soldi o se è stato Marrazzo a darli. Questo poi si accerterà tutto. Io mi devo fermare qui perché ho già sforato di 30 secondi. Ringrazio sia Francesco Storace, Vladimir Luxuria, Carlo Bonini di Repubblica per essere stati con noi. Ricordo, votate radio24.it Marrazzo, giusto che si dimetta oppure no. Al momento il 71% dice sì, si dimetta. Ve lo diremo poi domani o alle 13. Ringrazio tutti, Paolo Corleone in regia e Alessandro Marcotulli con Laura Marchesi in redazione. A domani. Bianco o nero?